Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, le attese, previsioni della Commissione Europea su come andrà l'economia dell'area euro, ma non solo, nel 2009, in sostanza per quello che riguarda l'Italia ricalcano quelle già diffuse la settimana scorsa dalla Banca d'Italia, ossia meno 2% il PIL quest'anno, con una leggerissima ripresa prevista nel 2010, un più 0,3%, che sarebbe una stagnazione, però almeno diciamo, non una recessione economica. Il deficit in realtà invece nel 2009 dovrebbe stare al 3,8% e nel 2010 al 3,7%, quindi secondo l'Unione Europea sopra e non di poco il tetto del 3%. Il debito in crescita, 109% nel 2009, 110% nel 2010. Non è un bel ritratto quello che esce, ma devo dire in questo caso, ma il comune mezzo gaudio non vale molto, però il meno 2%, meno 1,9% è la stima in media del calo del PIL in tutta l'area euro. E se l'Italia vedrà anche una perdita di posti di lavoro con un aumento significativo, dice Bruxelles, del nostro tasso di disoccupazione, la crisi morde anche altri paesi, nel caso specifico ne parleremo anche nella seconda ora del programma, morde la Gran Bretagna con soprattutto sul fronte bancario, morde la Spagna, dove Standard & Poor's oggi ha abbassato il giudizio sul rating, quindi sul voto, il giudizio sul debito, il rating sul debito spagnolo, e non è che vada molto meglio negli altri paesi. Ha detto anche Almunia, adesso lo sentiremo, che comunque non esiste al momento alcun rischio di deflazione. E poi sull'Italia Almunia ha fatto notare che comunque nelle nostre misure anticrisi, nelle misure anticrisi finora adottate dal governo italiano, c'è la giusta combinazione tra stimoli fiscali necessari e prudenza sul fronte dei conti pubblici. E questo, va detto, è un plauso in primo luogo al ministro Tremonti, perché la dovuta prudenza sui conti pubblici è una cosa su cui Tremonti ha molto insistito, cioè non si possono fare manovre anticrisi così forti come quelle di altri paesi. Noi abbiamo un debito che è la metà di tutto il debito europeo, e il fatto che Bruxelles riconosca una dovuta prudenza è sicuramente un plauso alla linea, diciamo, della legge di bilancio di Tremonti. 349-238-6666 per i vostri sms. Cercheremo di capire anche cosa sta succedendo sul fronte dei consumi, perché da un lato i dati aggregati sono tutti negativi, dall'altro spesso ci scrivete o sentiamo dire, ma insomma i ristoranti sono pieni o comunque non sono in crisi, gli alberghi sotto le festività erano quasi tutti pieni o comunque non hanno segnato dei cali così significativi, non c'è stato nessun crollo nei consumi. Un rallentamento che è in atto però da anni, da quando c'è l'euro, ma non un crollo vero e proprio, mentre nella produzione industriale è così, ed è così anche sul PIL, ed è così anche sulla cassa integrazione. Ecco, cerchiamo di capire come si tengono assieme le due cose. Dicevo, 349-238-6666 per gli sms, rapidamente le altre notizie della giornata a partire dalla borsa. La borsa americana oggi è chiusa, si celebra infatti il Martin Luther King Day. Allora Parigi perde l'1,5%, Francoforte meno 1,9%, Londra meno 2,3%, e qui pesano i titoli bancari su Londra. Ancora Milano perde l'1,90% sul Mibtel e il 2,5%, pesante il calo oggi su Milano, tra le peggiori sull'S&P Mib. I motivi si chiamano Banco Popolare, di nuovo forti le vendite, meno 7,80, Fastub meno 6,8, Unicredit meno 6,6, Fiat scende a 4,4 euro per azione, perde il 6,4%, così come Intesa perde un altro 6,5%, L'Espresso meno 5,90, Generali meno 3,5, Comital Cementi, il 3,3 lo perde sia Alleanza che UbiBanca, il 3% è il calo del Monte dei Paschi e anche di Bulgari. Tra le banche male anche la Polare di Milano, meno 2,75%. Chi è positivo? Telecom guadagna 2,5 punti e risale a 1,08 euro per azione. Parmalat più 1,3 come Mondadori, Enel più 1,1 come Prismian, Snam più 0,7% come Terna. Euro fermo a quota 1,31 nei confronti del dollaro e a 90 pence nei confronti della sterlina. Sempre sui mercati, come facciamo ogni giorno all'inizio del programma, il petrolio è arrivato a 30, è sceso fino a 35 dollari, ossia i minimi di un mese a questa parte, a New York, mentre poco fa, come ricordava il nostro GR, è stato firmato l'accordo Russia-Ucraina sul transito e la compravendita di metano russo per i prossimi tre anni, 2009-2012, e Putin ha ordinato il ripristino dei flussi di gas che passano attraverso l'Ucraina. Alitalia, nel giorno del primo sciopero della nuova Alitalia, cancellati 22 voli, quindi nuova Alitalia, ma in questo caso vecchi problemi. Sciopero indetto dal sindacato autonomo SDL contro gli esuberi, contro le condizioni di lavoro e contro i criteri di assunzione. Il presidente dell'ENAC, dell'ente di controllo, ha detto non sono più ammissibili scioperi selvaggi che blocchino il traffico aereo. Nel frattempo, mentre oggi è iniziato, dovrebbe essere iniziato da pochi minuti l'incontro alla Regione Lombardia, al Pirellone, tra i vertici della CAI, ossia Roberto Colaninno e Rocco Sabelli, assieme al governatore della Regione Lombardia Formigoni, oggi un sondaggio svolto dalla Camera di Commercio di Milano con gli imprenditori milanesi, insomma, ha fatto emergere che il 70% degli imprenditori milanesi per andare a Roma preferisce il treno all'aereo. Chiaramente il treno ad alta velocità, il Frecciarossa e non gli altri treni. Su questo tra l'altro c'è una notizia oggi della protesta, ne parleranno i nostri GR, per dei vari amministratori locali per la tratta Catania-Palermo, ci si mette 5 ore, la protesta ha preso il nome anche ironico di Frecciarotta. Allora, sempre sul fronte dei mercati, l'Euribor sempre più giù, a tre mesi continua a seguire anche l'andamento dei tassi, è sceso al 2,41%, continua a battere i nuovi minimi, non era così basso il tasso interbancario che serve per calcolare tutti i mutui e i prestiti dal 18 novembre 2005. Allora, veniamo ai piani anticrisi, a quello che sta succedendo. Il rublo in Russia ha conosciuto oggi la 18ª svalutazione in poco più di due mesi, la quinta dall'11 gennaio. Ormai il dollaro e l'euro hanno guadagnato circa un 30% sul rublo, valgono un dollaro vale 30 rubli e un euro ne vale 40. E nel frattempo, secondo il ministro delle Finanze russo Alexei Kudrin, che si trova a Hong Kong per il forum finanziario asiatico, Mosca potrebbe stanziare altri 40 miliardi di dollari per sostenere il settore bancario. E invece un nuovo piano di sostegno alle banche, quello che il governo inglese ha annunciato oggi. Il piano deve garantire soprattutto i prestiti effettuati dalle banche allo scopo di incoraggiare il rilancio del credito nel paese. È il piano che arriva dopo quello dell'ottobre scorso. Il governo britannico lo scorso ottobre ha messo praticamente 41 miliardi di euro, una mega manovra finanziaria per ricapitalizzare i vari istituti, in cambio ha avuto delle azioni privilegiate delle varie banche, però nel frattempo è affondata e sta affondando in borsa a Londra la Royal Bank of Scotland, dopo aver annunciato che si attende nel 2008 una perdita di 31 miliardi di euro. Sarebbe, se confermata, la perdita più forte mai registrata da una società britannica. Sarebbero 8 miliardi di perdite vere e proprie, più 8 miliardi di sterline di perdite vere e proprie, più 20 miliardi legati all'acquisizione di ABN AMRO, che a questo punto chi gliel'ha fatto fare, visto che l'hanno comprata a fine 2007 assieme a Santander e a Fortis, e l'hanno pagata a quel tempo 70 miliardi di euro. Nel frattempo la quota del governo attraverso la conversione di azioni privilegiate in ordinarie arriverà al 70%, cioè il governo britannico ormai è in larga parte l'azionista della Royal Bank of Scotland, che solo fino a qualche mese fa era una banca privata, arriverà appunto al 70%, già adesso al 58%. Andiamo avanti con le banche tedesche, ne parliamo più avanti, ma insomma titoli tossici nel portafoglio delle banche tedesche per circa 300 miliardi di euro, di cui solo un quarto già contabilizzato, e questo è il motivo per cui vanno malissimo oggi tutti i titoli bancari. Del rating spagnolo abbassato da Standard & Poor's, abbiamo già detto, e mentre Standard & Poor's ha abbassato anche il voto sul debito greco, invece ricordo che ha lasciato invariato quello sull'Italia. Sentiamo allora Almunia per quello che riguarda non tanto il rischio di deflazione che ha escluso, ma il giudizio sul giusto mix di incentivi tra incentivi fiscali e prudenza sul fronte dei conti pubblici, quindi il plauso in qualche modo alla manovra di Tremonti nel pacchetto anticrisi. Penso che il governo italiano e in particolare il ministro Tremonti non abbiano bisogno dei miei consigli. Tremonti sa molto bene cosa deve fare e sa che, vista la situazione economica e quella delle finanze pubbliche, in Italia serve una combinazione adeguata tra la prudenza e gli incentivi di stimolo fiscale. Questo per non avere altri problemi. Penso che questa combinazione di prudenza e stimolo sia già presente nelle politiche messe a punto dall'Italia e debba essere portata avanti. Se mi si chiede se l'Italia rischia l'apertura di una nuova procedura per deficit eccessivo, posso solo dire che il prossimo 18 febbraio valuteremo i programmi di stabilità inviati dai vari paesi. Quando ridiscuteremo le nostre conclusioni nell'ambito del Consiglio Ecofin il 10 marzo, allora sarà il momento di trarre le conclusioni sui programmi di stabilità e di crescita e sui miglioramenti circa le correzioni del deficit eccessivo. Of the Stability and Growth Pact in terms of the correction of excessive deficit. Così Almunia e poco fa, intanto, anzi qualche minuto fa, il sito americano Automotive News il sito Automotive News Europe, non è americano chiaramente, ha scritto che il gruppo Fiat sarebbe in trattative con la Chrysler per creare una partnership strategica che potrebbe anche includere l'acquisto di una quota nella casa automobilistica americana. Quindi, da quello che capisco, sarebbe Fiat a poter comprare una quota di Chrysler. Va bene, o meglio, non va così bene, ma noi andiamo avanti. Professor Giacomo Vaciago, docente di politica economica alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Questa sera c'è anche l'Eurogruppo, lei le stime diffuse oggi dalla Commissione Europea le conosce. Io terrei distinti i singoli problemi, la Gran Bretagna con le banche, ne parleremo nella seconda ora, la Spagna col debito, anche quella dalle previsioni complessive diffuse da Almunia. Tra l'altro, poi ascolteremo anche un passaggio di Tremonti sull'ipotesi di bad bank. Ma insomma, meno 1,9%, deficit al 3,8, al 3,7, tutto sommato però l'Italia, oltre a delle previsioni abbastanza cupe come per il resto d'Europa, incassa un plauso sul mix giusto di incentivi, ma anche di prudenza sul fronte ai conti pubblici. Come dire, preferiamo che voi aiutate meno l'economia, ma non, diciamo, toccate troppo i conti pubblici. Sì, e peraltro la Commissione conferma la sua inutilità. Si limita in ritardo a rivedere le stime. Fa concorrenza a uffici studi privati che fanno questo mestiere meglio e in modo più tempestivo, e sancisce sostanzialmente la propria irrilevanza. Si limita a fare il nostro mestiere di noi cittadini, cioè dice cosa pensa dei governi. Beh, a che scopo ci serve? Io comincerei a risparmiare tutti i soldi che spendiamo ad avere tutte queste persone a Bruxelles. Per sentirmi dire che faremo meno 2 di PIL nel 2009, quando già a dicembre abbiamo fatto meno 1,4, questo è il trascinamento. E quindi in sostanza ci dicono che il PIL nel 2009 italiano staziona sui bassi livelli cui è arrivato. Beh, questo c'era già arrivata anche Banca d'Italia, è il mestiere del chi non fa nulla di più che il geometra, tira delle righe e dice se a dicembre siamo a meno 1,4, scendiamo un po' nel primo trimestre, recuperiamo nel quarto, mettiamo meno 2. È un mestiere inutile, soprattutto perché non è accompagnato dall'unica cosa che manca qui, che è una politica per migliorare la situazione. Cioè l'Europa, fra tavole rotonde, conferenze stampa e comunicati e quant'altro, continua una linea di molte chiacchiere e nessun fatto. E questo veramente è deplorevole, soprattutto per quei 16 paesi che, essendo sposati strettamente, hanno la stessa moneta, la stessa inflazione, lo stesso cambio col dollaro e con le altre monete, e avrebbero bisogno di una politica molto più comune. Purtroppo l'euro, non a caso i mercati si sono rimessi a scommettere quando a turno i paesi più deboli, fatti due conti, capiscono che gli conviene uscire dall'euro. Questi sono gli spread che abbiamo nel caso dei vari paesi più deboli. Quanto tempo gli conviene ancora stare insieme in una Europa che non c'è, che ha solo i limiti, sì, e le pagelle, ma non ha le politiche comuni. Tra l'altro questa sera si riunisce l'Eurogruppo, domani l'Ecofin, però è un dato di fatto che al di là di un segnale, da alcuni anche secondo alcuni timido, di un tentativo di coordinamento sugli aiuti e gli incentivi alla rottamazione per il settore auto in Europa, altra iniziativa comune non è arrivata, cioè la Banca Europea degli Investimenti ha 14 miliardi per aiutare complessivamente tutte le imprese europee in difficoltà, capirai. Ci vuole una strategia di crescita. Sì, ma no, i vari paesi, professor Vaciago, la Germania forse in questo momento, se lei aspira a delle politiche europee comuni, è il principale problema. La Germania, l'Angela Merkel non ne vuole sapere di avere pacchetti, diciamo, di carattere infrastrutturale, investimenti nelle infrastrutture o di altro genere, condivisi con l'Europa. Sì, ma perché la Germania dà un'interpretazione del suo ruolo che non è quella di essere il più grosso e quindi di fare del bene agli altri, ma che è quello storico di essere motore dell'integrazione. E purtroppo con questo governo tedesco, questo concetto che l'Europa o va avanti o va indietro, ma è un processo, non è una fotografia, è un film, non è una fotografia. Questa idea di moltiplicare inutili cerimonie e non procedere sul piano dell'integrazione delle politiche, io mi aspettavo che almeno strumenti come la BEI fossero moltiplicati per dimensione. Invece proprio no. Perché Maastricht lega le mani ai singoli paesi, ma non gli vieta affatto di fare cose assieme, ci mancherebbe altro. La lettura dei vincoli di Maastricht è: da solo un paese non può fare debito perché rischia di danneggiare il prossimo. Benissimo, ma assieme si può? Ovvio che sì. Certo. Ma tra l'altro devo dire che su questo, sull'operazione della BEI, insomma, è vero che magari l'Europa è meno colpita dalla crisi quanto l'America, ma l'America fino adesso ha messo in campo 800 più 800, cioè 1.600 miliardi di dollari, e Obama ne, con ogni probabilità, annuncerà un pacchetto di altri 800 miliardi, quindi arriviamo a 2004, se la matematica non è un'opinione. L'Europa ha dato 15 miliardi, cioè 2.400 miliardi di dollari da una parte, 15 miliardi dall'altra, alla BEI. Ora, con tutto che possiamo essere ottimisti, non so, le proporzioni non reggono. Due domande rapidissime per lei, perché poi vorrei passare al nostro prossimo ospite. Alcuni ci chiedono: perché l'Europa non stampa moneta, visto che l'inflazione continua a calare? Beh, attenzione, perché nel trattato noi abbiamo attribuito alla BCE un compito molto contenuto, perché a sua volta riflettevamo i problemi del passato. Ricordiamoci che la BCE nasce nel 92 a Maastricht e nasce fisicamente nel 99 a Francoforte, all'insegna che i mali del mondo sono, perché questi erano stati negli anni 70, l'inflazione. E quindi è quello l'unico suo grande obiettivo. Finalmente nel 2009 sarà contenta, l'inflazione come problema scompare, sarà uno o meno. Bene, detto ciò, e con ironia di nuovo ovviamente, attenzione che la forza di una moneta è anche la crescita e il benessere dei cittadini, non può essere solo l'inflazione. E quindi anche qui bisogna pazientemente ripensare, non per fregare il prossimo, ma per costruire un'unione che meriti, di cui meriti essere parte, andare avanti. La BCE deve diventare una banca centrale vera, non dimezzata, su questo, una sola mania. Su questo apriamo poi un tema che già altre volte abbiamo trattato. L'ultima domanda, così introduco anche il prossimo tema. Intanto saluto il sociologo Gianpaolo Fabris, che insegna la sociologia dei consumi all'Università San Raffaele di Milano. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera. L'ultima domanda che ho per lei, professor Acciago, mi fa da ponte sul prossimo tema. Oggi su Corriere della Sera Giuseppe De Rita, che è il presidente del Censis, scrive in sostanza: noi continuiamo a dire che meno male che avevamo le piccole imprese legate al territorio, meno male che avevamo le banche legate al territorio, meno male che avevamo lo statalismo, un po' di pezzi di Stato dentro l'economia, cioè anche quelli che fino a qualche giorno fa ci raccontavano che le banche dovevano essere solo grandi finanziarizzate, che lo Stato doveva essere fuori dalle società e che le imprese dovevano essere solo grandi, adesso hanno riscoperto un altro modello italiano. De Rita teme che in questo modo, tra virgolette, ce la stiamo un po' raccontando, cioè l'illusione che da noi siamo più preparati alla crisi. Condivide questo timore o no? Diciamo che noi abbiamo coltivato la piccola dimensione perché è più capace di sopravvivere alle botte e quindi adatta in tempi di crisi, ma non è il modello su cui costruisci la crescita di un paese. Tant'è vero che negli ultimi 15 anni noi abbiamo avuto ottime piccole imprese che crescono, ma l'Italia non è più cresciuta. E quindi dobbiamo di nuovo ripensare, ci interessa che cresca anche l'Italia o solo qualche nostro capitalista bravo? Allora, grazie intanto Giacomo Acciago, vorrei la risposta su questo anche da Gianpaolo Fabris, poi parleremo di consumi, della domanda del perché i consumi non vanno per fortuna così male, certo non sguazzano nell'oro, ma non così male come l'economia in generale. Però insomma, lei condivide quanto ha scritto De Rita oggi, lo stress da crisi può essere anche salutare, attenzione a dire, beh, ma noi avevamo già un modello di banche più tradizionali, di imprese più legate al territorio, quindi possiamo preoccuparci di meno, dovremmo sfruttare anche noi la crisi per avviare un momento di rinnovamento? Beh, io credo di sì, tra l'altro erano le stesse tesi che De Rita aveva sottolineato nell'ultimo rapporto Censis, il 42esimo di qualche settimana fa, cioè che un momento di grande crisi potrebbe essere, lui mi sembra la chiamava la grande metamorfosi o la grande trasformazione, analoga un po' a quella degli anni 50, cioè bisogna prendere consapevolezza che questa non è una crisi come tutte le altre, ma sotto certi aspetti è una crisi epocale, una crisi di un modello di sviluppo, e la cosa peggiore sarebbe di ritenere che si possa essere competitivi riproponendo lo statu quo. Mi sembra che De Rita, e su questo sono assolutamente d'accordo, dica che questa è una straordinaria opportunità e forse noi come italiani ci poniamo in una posizione un po' in pole position rispetto ad altri paesi. In pole position se la sfruttiamo, non se diciamo ci limitiamo a dire che tanto noi problemi ne abbiamo meno degli altri. Certamente, occorre veramente un colpo di reni, poi non so se i soggetti sono quelli che indica De Rita proprio nell'articolo di quest'oggi, cioè i giovani, i precari, le donne, i migranti, insomma questi nuovi soggetti saranno proprio loro a tirare la volata, però certamente bisogna che qualcuno cominci a farlo e a mio modo di vedere il mondo delle imprese comincia a attrezzarsi ancora di più che non gli orientamenti di politica economica del paese. Allora, grazie per adesso. 17:35 minuti di nuovo in diretta. Allora, professor Fabris, i consumi. La cassa integrazione a dicembre ha fatto più 130% e andrà così anche nel 2009. La produzione industriale ha avuto un calo superiore al 10%, 12%, si stima un 10%. Il PIL farà un meno 2 nel 2009. In questo scenario i consumi, come dato aggregato, fanno meno 0,7 ottobre, sotto Natale più 2 la ristorazione, insomma stagnano ma non crollano. Come mai? Ma diciamo che anzitutto probabilmente della cassa integrazione, di quelli che saranno probabilmente problemi crescenti sul fronte dell'occupazione, non si sentono immediatamente, si sentiranno nei prossimi mesi. Devo dire che in questi anni, perché ormai è una crisi questa che ha un quinquennio alle spalle, e la pelle del consumatore è veramente cambiata, ha cambiato il suo DNA, cioè ha accentuato un nomadismo tra punti vendita, marche, prodotti, beni e servizi, alla ricerca di prodotti che consentano sostanzialmente di soddisfare i suoi bisogni a un prezzo più basso. Tra l'altro lo scenario che avremo davanti nei prossimi mesi è uno scenario di prezzi più bassi, a cominciare dalle bollette, certamente agevolerà in questo il consumatore. C'è un dato che spesso non viene considerato, a mio modo di vedere, con miopia, che tra l'altro questa contrazione che c'è stata nei consumi, indubbia negli ultimi anni, ha creato problemi crescenti a chi produce e vende, ma devo dire disagi sostanzialmente contenuti a livello dei consumatori. Certo non bisogna fare il pollo di Trilussa, insomma c'è un segmento della popolazione, quel 12-13% al di sotto della soglia di povertà, aggiungiamo un altro 6-7%, circa un quinto della popolazione che ha dei redditi molto bassi e che ne ha risentito, ma diciamo i 4/5 del resto della popolazione tutto sommato non ha sentito particolari disagi. Io ho fatto una ricerca recente ad esempio sulla diminuzione della spesa per Natale, la gente non ha che ha percepito frustrazioni, insoddisfazioni per questo, insomma tutto sommato ha continuato a vivere relativamente bene. Allora, la seconda domanda è la seguente: non è che magari, almeno noi lo vediamo dai dati aggregati, crollino i consumi per esempio di auto, cioè i beni durevoli paradossalmente che meno sono cresciuti in questi anni però comportano spese importanti, l'elettrodomestico, l'automobile, mentre tutti quei consumi che hanno anche un valore simbolico, perché rinunciare a uscire al ristorante, andare al supermercato e dover comprare il prodotto più scontato per risparmiare qualche decina di euro, si tenda a tenerli fino all'ultimo, ed ecco perché poi i luoghi comuni vogliono i ristoranti pieni e gli alberghi con buone prenotazioni, però poi vediamo che complessivamente i dati aggregati sono tutti brutti? Beh, assolutamente sì, io credo che lei ha fatto un'analisi molto corretta, insomma quelle che sono state, teniamo presente tra l'altro che per gran parte dei beni, soprattutto i beni durevoli, sono beni di sostituzione, quindi c'è una larga discrezionalità nel decidere quando cambiare una macchina piuttosto che qualche cosa di costoso, e questo ha fatto sì che si liberassero quote importanti anche di reddito per altre tipologie di consumo, per altre scelte che soggettivamente sono importanti. Per esempio è vero che c'è stata una situazione di stagnazione o di contrazione in gran parte dei comparti del consumo, però ce ne sono alcuni che in questi anni hanno continuato a crescere costantemente, le spese per la salute in senso olistico, quindi anche il corpo, lo star bene, la vacanza, il viaggio, tutto il settore dell'high tech, soprattutto il settore dei computer che sono aumentati, quindi bisogna tenere presente che in questo periodo, cosa che abitualmente si sottovaluta, stanno cambiando anche in maniera incisiva le gerarchie dei bisogni. E vediamo un esempio concreto e poi la saluto perché so che ci deve lasciare, ma lei citava, se non ricordo male, una differenza tra, non so, noi abbiamo visto le spese in cosmetica per esempio, così andiamo su cose molto concrete, sì. Sono in aumento. E uno potrebbe dire, ma come mai spendi soldi, per carità, non quelle maschili, non penso quelle maschili, ma come mai spendi soldi per un elemento così un po' più superfluo, mentre l'abbigliamento, che dovrebbe rientrare, per quel poco che ci capisco io, nella stessa categoria, cioè la moda, il come ti vuoi proporre, è in continuo calo e anzi soffre parecchio. Ma guardi, anzitutto mi permetta una piccola correzione. Uno dei segmenti che sta tirando di più in questo momento è proprio l'aspetto della cosmetica maschile. Anzi, se c'è da fare una piccola differenziazione, i prodotti da trattamento, che sono quelli che avrebbero più una funzione nutritiva, curativa, eccetera, dagli antirughe agli anti-age. Comunque, prescindendo da questo, è vero, se noi andiamo a vedere tra l'acquisto di un abito, di un pullover, di un capo di abbigliamento e l'acquisto del mascara, dell'eyeliner, di un rossetto, c'è una differenza enorme, però in qualche maniera i bisogni sottostanti sono abbastanza simili. C'è un bisogno di intervenire sul corpo, di presentazione sociale e anche una forte componente ludica, di divertimento, che spesso sottende l'acquisto di un capo di abbigliamento. Beh, adesso io la sto spostando gradatamente su dei prodotti che costano meno, come i prodotti da make up, i prodotti cosmetici. Naturalmente non è un travaso completo, però è vero, vediamo nel settore degli accessori e dei capi di abbigliamento, dell'abbigliamento in genere, della moda, una diminuzione e un aumento invece nel settore della cosmetica. Quindi, per sintetizzare, anche se in maniera forse impropria, da un lato i consumi restano deboli, stagnanti. Devo dire che i consumi in Italia sono iniziati a essere deboli, stagnanti dopo i primi due anni dopo l'euro, dal 2002-2003, quando la gente ha iniziato a capire che molto spesso il mondo del commercio in generale, del turismo, aveva fatto il passaggio 1.000 lire, 1 euro. Non si stanno andando bene, però diciamo alcuni motivi del fatto per cui non vanno così male come l'industria, o così male come alcuni beni durevoli, o così male come i dati aggregati, mi sembra che fossero chiari. C'è una ridefinizione anche dei bisogni, delle priorità, e allora magari spendi al ristorante e non ti compri l'auto. È chiaro che le due cose sono incommensurabili come valore, e da lì però attenzione anche alle percezioni distorte, come diceva oggi, scrive oggi anche Derita. Grazie a Gianpaolo Fabris. Adesso dai consumi, dall'analisi dell'andamento macroeconomico europeo che abbiamo fatto con Giacomo Vaciago e dei consumi italiani con Gianpaolo Fabris, passiamo alla giornata di borsa. Ha chiuso non sui minimi il MIBTEL, ha recuperato qualcosa anche l'S&P MIB, meno 1,80% l'S&P MIB, meno 1,35% il MIBTEL. Meno 0,90 Parigi, meno 1,15 Francoforte, meno 1,1 Londra, più 0,80 l'America in questo momento, e anche più 1,16 il Nasdaq. L'euro a quota 1,31,33 nei confronti del dollaro e 0,90 nei confronti della sterlina. Allora, il tema di oggi si chiama banche, perché in Gran Bretagna, ne parleremo anche più avanti, è successo un po' di tutto oggi. Paolo Paronetto, buonasera, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera a tutti. Royal Bank of Scotland che ha annunciato, se saranno confermate, le perdite più grandi mai registrate nel Regno Unito da una società. Cioè stiamo parlando di 31, vado a memoria, miliardi di euro. Come conseguenza, da un lato, degli investimenti a questo punto dissennati fatti, cioè 8 miliardi e 20 di pound, e 20 miliardi legati all'acquisizione di ABN AMRO, perché prima che arrivasse il diluvio gli inglesi, assieme ai belgi e agli spagnoli, si erano comprati anche la banca olandese, non avendo capito nulla di quello che stava per arrivargli addosso. Comunque, Paolo, come ha chiuso la Bank of Scotland e le conseguenze in Europa? Sì, infatti proprio il tracollo di Royal Bank of Scotland, che adesso siamo in chiusura a Londra, sta chiudendo con una perdita superiore al 60%. Questo tracollo... Ti interrompo una cosa, ho letto Wall Street perché l'abitudine, avevamo premesso che oggi è il Martin Luther King Day, poi abituato a leggere la spada affiata, ho letto che Wall Street, tranquilli, Wall Street è chiuso, l'abbiamo detto in apertura del programma, e il Martin Luther King Day riaprirà domani Wall Street. Scusa l'interruzione, Paolo. Figurati, sì, Royal Bank of Scotland sta perdendo oltre il 60% proprio su queste ipotesi, che ancora non sono ufficiali questi dati, ma di una maxi perdita di 28 miliardi di sterline, e questo calo ha trascinato al ribasso l'intero comparto bancario europeo. A livello di sottoindice del settore la perdita è di circa il 9%, e per quanto riguarda ancora Londra ha perso il 30% circa Lloyds Banking Group, che nel primo giorno di quotazione per la banca nata dalla fusione fusione tra Lloyds, TSB e HBOS, ma le vendite hanno riguardato ovviamente anche Barclays, che ha perso circa l'11%, e per venire a Piazza Affari tutti i principali titoli. Il peggiore è stato il Banco Popolare, che ha perso il 6,9%, annullando quindi di fatto il recupero che aveva messo a segno a partire dall'inizio di gennaio. Male anche Unicredit, sui minimi assoluti, in calo del 6,81%, Intesa San Paolo, che invece ha limitato i danni, così come UBI, al 3,8%. Diciamo che l'unica a aver tenuto e limitato le perdite è Mediobanca, che ha perso soltanto, tra virgolette, l'1,35%. Sì, devo dire che tra l'altro quando vanno male i bancari in Europa e vanno male anche in Italia, le vendite si concentrano soprattutto sul Banco Popolare in queste settimane, in queste sedute, e Unicredito. Intesa ha perso la metà, che non è poco, meno 3,80, ma è la metà. UBI Banca pure ha perso la metà rispetto a Unicredito e Banco Popolare. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, gli altri titoli, con anche Telecom Italia, che invece ha chiuso in rialzo del 3,3%, non male. Anche Enel più 1,6, e Snam più 1,5, Fiat invece meno 4,90%. Allora, Paolo Paronetto, al di là del mondo bancario, insomma, quando la Royal Bank of Scotland perde il 60% e Barclays l'11%, tutta l'Europa va male sulle banche, da noi appunto soprattutto Unicredito e Banco Popolare. Dicevo, in positivo Telecom. Immagino che il mercato scommette su qualche novità, perché un 3,3% in una seduta come questa, tutta negativa, non è poca cosa, Sì, esatto, l'attesa segnalano dalle sale operative. Per novità sul fronte industriale per Telecom Italia, da segnalare che oggi il titolo è stato anche sostenuto dal buon andamento dell'intero comparto media europeo, che è uno dei pochi che ha chiuso la seduta in positivo. Per quanto riguarda Telecom, poi, secondo alcune indiscrezioni apparse sulla stampa, il gruppo potrebbe cedere le proprie frequenze digitali e a proposito sarebbero già arrivate almeno 4 offerte sul tavolo di Telecom, sia da parte di soggetti italiani ed esteri, un'eventualità che potrebbe portare Telecom ad accelerare sulla cessione delle frequenze per le trasmissioni digitali, che potrebbe essere avviata già entro febbraio. Il mercato ha scommesso su uno scossone del piano industriale di Telecom e dell'attività di Telecom, spingendo il titolo in rialzo del 3,31%, avvicinando 1,1 euro. E invece male Fiat. Devo dire che tra l'altro a mercato aperto, quando è iniziato il programma, è arrivata anche questa indiscrezione del sito Automotive News Europe, in cui la Fiat starebbe trattando con la Chrysler per creare una partnership strategica che potrebbe anche includere l'acquisto di una quota nella casa automobilistica americana. Sì, certo, anche questa notizia ha contribuito a alimentare l'incertezza sull'andamento di Fiat. Oggi il titolo ha perso il 4,88%, chiudendo sotto i 4,5 euro per la prima volta dal 2005 e raggiungendo minimi che non vengono rintracciati nei nostri terminali, che quindi si risale a oltre prima del 98, prima della privatizzazione di Borsa Italiana. E per quanto riguarda Fiat, tra l'altro, l'attesa è alta per i conti del 2008, che saranno diffusi il giovedì 22 gennaio. Le attese degli analisti sono per un utile netto complessivo per l'intero 2008 di 1,76 miliardi, ma è molto forte la frenata attesa nel quarto trimestre, ovviamente rispetto al quarto trimestre del 2007, a causa della crisi globale. Certo, anche la notizia di possibili acquisizioni di quote in Chrysler in un momento come questo, quando l'allarme è sull'indebitamento del gruppo, non ha certo contribuito e ha spinto anch'esso il titolo in ribasso. Allora, altri titoli, poi arriviamo anche a due titoli che bene si sono mossi, ma oltre ai bancari, anzi concludo con i bancari e leggo anche gli altri: Monte dei Paschi meno 3,30, Alleanza meno 3,2, Banca Popolare di Milano meno 3%, Generali meno 3, Fondiaria meno 2,70, Italcementi meno 2,6, il 2,5 l'ha perso Bulgari, ma anche l'Espresso, il 2,3 in Pregilo, il 2% l'Automatica e Autogrill. Chi in bene è andato invece è, oltre a Telecom, Parmalat più 2,1 e poi Enel più 1,6, Snam più 1,5, Prismian più 1,2%, anche STMicroelectronics più 1,2%, A2A più 1%, Terna più 1%. A segnalare che perlomeno chi gestisce la rete, tra l'altro anche Eni ha perso molto poco, meno 0,5%, diceva, a segnalare che il settore energetico, elettrico-energetico, non se l'ha passata male, visto che Enel ha preso l'1,6. Sì, certo, tutto il settore delle reti, delle utilities, in generale quello energetico, è uno di quelli che si difende meglio, soprattutto quando ci sono queste tempeste generalizzate, essendo considerato genericamente molto più difensivo. Per quanto riguarda Enel, poi in particolare nel fine settimana sono circolate alcune indiscrezioni, secondo cui un pool di 7 banche sarebbe pronto a finanziare l'acquisto del 25% di Endesa in mano agli spagnoli di Acciona. L'operazione è consentire a Enel di porre fine all'impasse sorta in certo qual modo alla guida di Endesa per contrasti con il partner spagnolo, e quindi lascerebbe al gruppo italiano mano libera nella gestione della controllata spagnola. Per quanto riguarda invece Prysmian, che citavi tu, anche se è andata bene, ha guadagnato l'1,22% e continua a beneficiare della notizia che il piano di stimolo all'economia che sarà varato dal nuovo presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che si insedia domani, dovrebbe prevedere misure di stimolo per il settore della trasmissione di elettricità per circa 3 miliardi di dollari ogni anno. Prysmian è una società ovviamente attiva nel settore dei cavi, controlla circa il 25% del mercato complessivo e quindi sarebbe tra i principali beneficiari di un programma come questo. Ancora sui titoli, i migliori e peggiori, il gruppo Monriff più 5,8, bene oggi Media, nel senso che anche, alcuni non tutti, anche Media si è guadagnato l'1,2% e Mondadori l'1,1%, comunque Monriff è il migliore, e SNAI più 4,3%, Eurotech più 3,6%. Il peggiore invece Cell Therapeutics meno 17, Deutsche Bank manco a dirlo meno 11,4, BNP Paribas meno 9,6, ING meno 10,1, Bastoggi meno 9,5, Société Générale meno 8,92%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo in tema di banche, perché visto che poi parleremo dell'iniziativa britannica, ascoltiamo cosa ha detto ieri il ministro Tremonti, ospite di Fabio Fazio, sull'ipotesi della cosiddetta bad bank, un po' come la bad company, ossia, adesso la dico in maniera un po' sommaria, una banca che vada ad assorbire tutte le cose brutte, tutta i prodotti tossici, tutto quello che è a rischio, un po' come con l'Italia si è fatta bad bank, bad company da una parte e good company dall'altra. Chiaramente Tremonti non si riferiva a una necessità italiana, ma diciamo, a un'ipotesi di lavoro europea. Prende tutta la finanza derivata e deviata, che si è sviluppata negli ultimi anni in un modo assolutamente ingestibile e non sostenibile, la metti in alcuni veicoli speciali, in contenitori, li isoli per 50 anni, cambi le regole contabili e quelli che si sono illusi di guadagnarci in questo modo ci perdono. Anche perché non hanno mai avuto, è tutta un'illusione, quindi se anche ci perdono, pazienza. Si chiamano bad bank, veicoli apposta, chiamali come vuoi. Salvare tutto è una missione divina, salvare il salvabile è una missione umana. Se tu pensi, come è stato pensato, di salvare le grandi banche d'affari, la Goldman Sachs, di salvare tutte le banche con dentro attivi marci, e però anche di salvare i consumi, la domanda, le famiglie e le industrie, non ce la fai, neanche la forza dei governi basta, alla fine va a finire che ci perdono tutti. Io credo che tu devi salvare le famiglie, il risparmio delle famiglie, le industrie, la parte funzionale delle banche e staccare il resto. Quindi molto netto giudizio del ministro Tremonti, attenzione, i soldi per salvare tutti non ci sono, e a questo punto congeliamo, mettiamo in un deposito, chiamatelo come volete, in un deposito che potrà essere accessibile fra un bel po' di anni, tutti questi prodotti che sono carta, carta su carta, che valgono poco meno della carta su cui sono scritti, e in questo modo si arrangino quelli che si sono impegnati, ossia le grandi banche d'affari, e noi utilizziamo i soldi per il resto dell'economia. Ne parliamo dopo il GR, perché in Gran Bretagna questo problema non è di scuola, ma è proprio concreto, devono salvare alcune grossissime banche i britannici in questo momento. 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, dopo aver raccontato le previsioni più o meno utili dell'Unione Europea, la Commissione Europea che ha detto in sostanza crolla il PIL dell'area euro nel 2009, meno 1,9% in media. In Italia confermate le stime già diffuse dalla Banca d'Italia, e cioè meno 2%, con un deficit al 3,8% nel 2009 e al 3,7% nel 2010. E però con un plauso anche per il mix di misure adottate dalla parte italiana, vi farei sentire anche in tema sempre di Bruxelles quanto ha detto Almunia sul rischio diciamo default eccessivo, ma insomma il rischio di differenze tra i vari paesi, ricordando però che è arrivata anche la conferma adesso di nuovo che riprenderanno da domani tutte le forniture russe di gas, raggiunto infatti l'accordo in Ucraina per quello che riguarda per quello che riguarda il gas russo che passa dall'Ucraina diretto in Europa. Putin ha ordinato il ripristino dei flussi e appunto qualche minuto fa la premier ucraina Yulia Tymoshenko ha detto che è ripreso il transito del gas russo. Sentiamo Almunia sul rischio, diciamo, di un aumento degli spread, ossia di quanto costa ogni Stato rifinanziare ogni anno il debito attraverso l'emissione di obbligazioni, di bot. Questo spread sta aumentando tra Italia e Germania, la Germania è considerata il paese più affidabile. C'è chi ha paventato il rischio che quest'anno sia difficile anche per l'Italia trovare sottoscrittori del suo debito, metà del nostro debito lo comprano gli stranieri, perché altri paesi emetteranno molti bot, ossia T-bond o bund tedeschi, e quindi diventerà un mercato più concorrenziale, magari uno si compra più il debito tedesco o il debito americano rispetto al debito italiano. Gli spread sono aumentati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. È un dato di fatto, una realtà che deve essere affrontata dagli Stati membri. Non penso assolutamente che per i paesi della zona euro ci sia un rischio di default. Il rischio esiste sempre, sia nel settore privato che pubblico, ma nel caso dell'eurozona non penso che questo rischio sia aumentato o sia significativo. Penso che quei paesi che non hanno consolidato i loro conti pubblici nei periodi positivi ora debbano fare attenzione. Voglio ricordare che in base al trattato di Maastricht il debito non può essere finanziato attraverso la banca centrale e in secondo luogo nessun salvataggio è possibile. Sono due condizioni presenti nel trattato di Maastricht che continua e continuerà anche in futuro ad essere presente. E ripeto, poi Almuni ha detto che in Italia il pacchetto anticrisi contiene un giusto mix tra incentivi e una prudenza sul fronte dei conti pubblici. L'Europa ci tiene molto che l'Italia non sfori su deficit e debito. 18ª svalutazione consecutiva del rublo, che adesso vale praticamente 30 rubli fanno un dollaro, 40 rubli fanno un euro. In Russia si pensa a altri 40 miliardi di dollari per salvare le banche, lo ha detto il ministro delle finanze Kudrin all'apertura del forum finanziario asiatico in corso a Hong Kong. In Germania, secondo un rapporto realizzato dalla Bundesbank, ci sarebbero 300 miliardi di euro di titoli tossici, di cartaccia, di roba che non vale nulla, e solo un quarto sarebbe stato contabilizzato nelle banche come perdita. Mancherebbe all'appello 230 miliardi di euro a spanne. Dove invece questi problemi continuano a emergere è la Gran Bretagna. È che dopo aver fatto un piano da 40 miliardi di euro lo scorso ottobre, praticamente il governo britannico è entrato nelle banche, lo ha fatto attraverso le azioni privilegiate, ha messo 40 miliardi di euro, una manovra finanziaria enorme per entrare nelle banche, dopo essersi comprato il 60% di Royal Bank of Scotland, oggi ha annunciato che arriverà al 70%, e comunque c'è un altro piano in vista, un piano pesante. come sistema di garanzie vale 250 miliardi di sterline. Ce lo racconta il corrispondente Sole 24 Ore della Gran Bretagna, Leonardo Maisano. Buonasera. Buonasera a voi. Prima di tutto farei sentire i motivi che hanno spinto il governo britannico ad annunciare il nuovo piano. Li ha raccontati oggi nel corso di una conferenza stampa il primo ministro britannico Gordon Brown. Non starò da una parte senza fare nulla per impedire che le persone vengano lasciate a se stesse e vadano al fallimento a causa degli errori irresponsabili compiuti da alcune banche. Le imprese sane devono avere accesso al credito perché non bisogna perdere posti di lavoro inutilmente. Con le misure intraprese oggi vogliamo espandere il credito. Saranno misure temporanee che non resteranno in vigore più del necessario. Proteggeremo gli interessi dei contribuenti. I prestiti dovranno essere elargiti se sostenuti da valide ipoteche e le banche pagheranno per avere accesso a questi schemi che stiamo introducendo. Il costo del non agire è semplicemente troppo alto. Sono tempi straordinari che richiedono azioni senza precedenti. Queste misure dimostrano che non torneremo più indietro alle vecchie pratiche del sistema creditizio e alle irresponsabili prese di rischio finanziarie di molte nostre banche nel passato. Queste misure dimostrano che faremo tutto quello che possiamo per mantenere la stabilità, sostenere l'economia e, nei prossimi mesi, espandere il prestito necessario per aumentare la prosperità di imprese e famiglie. Allora, Leonardo Maisano, prima di dare le informazioni per chi è in viaggio, il nuovo piano, come si articola? Alcuni hanno detto si creerà una bad bank, in realtà non sembra proprio così. No, assolutamente non si creerà una bad bank, si creerà un sistema di garanzie per, da un lato, assicurare le banche sul rischio dei cosiddetti asset tossici. Il governo interverrà se le perdite saranno superiori a un tetto che è in via di definizione. E questo è un piano che era forse il più atteso dal mercato, perché la questione degli asset tossici e della loro diffusione è, come sappiamo, uno dei problemi principali che blocca il sistema del credito. L'altro punto è invece l'ampliamento in generale del sistema di garanzie al credito, un piano da 250 miliardi per cui vengono garantiti i nuovi crediti che verranno emessi. E il terzo punto del piano riguarda invece garanzie sulle cosiddette asset-backed security, cioè mutui, debiti societari, eccetera. Sono delle ulteriori garanzie che il Tesoro e la Banca Centrale, perché è un'azione congiunta, daranno alle imprese. Cioè, di fatto è un ingresso dello Stato nel sistema bancario del credito a 360 gradi. La Banca d'Inghilterra, va detto, avrà un ruolo importante, perché qua si parla che l'Inghilterra è arrivata di fatto con queste misure a un passo dal cosiddetto quantitative easing, cioè allo stampare nuova moneta. Ma infatti la Banca d'Inghilterra avrà un fondo di 50 miliardi di sterline garantito dal Tesoro per acquistare asset e aumentare la liquidità nel sistema, a titoli non tossici, parliamo di titoli normali. Allora, un piano molto articolato, come tu dicevi, a 360 gradi. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, vorrei capire quanto andrà avanti questa, tra virgolette, nazionalizzazione del sistema bancario, quantomeno come garanzie, e perché però nel frattempo oggi la Royal Bank of Scotland abbia perso il 64%, 61% in borsa, Barclays l'11%, trascinando con sé tutto il settore bancario in Europa. Lo abbiamo già raccontato nel corso della prima ora, ma insomma da noi Unicredit ha perso alla fine quasi il 7%, così come il Banco Popolare. Dunque, il governo britannico alle prese con una difficoltà enorme nel sistema bancario lancia un piano che oggi Gordon Brown ha raccontato, per cui assicura tutti i prodotti tossici che le banche si sono messe in pancia in cambio di una commissione, estende per 250 miliardi il sistema di garanzie al credito, fa dalla Banca d'Inghilterra 50 miliardi di sterline, 55 miliardi di euro, per acquistare asset, cioè per entrare nelle banche, continuare a entrare nelle banche e aumentare la massa monetaria, e poi dà un insieme di garanzie per la concessione dei mutui, finanziamenti societari e persone. In sostanza, garantisce le banche sulla tossicità dei prodotti, garantisce le banche sui crediti concessi, come diceva Leonardo Maisano, un'operazione a 360 gradi. Non la conseguenza, ma nel frattempo, oggi, meno 64% Royal Bank of Scotland, meno 11% Barclays, in Irlanda meno 70% Allied Irish, meno 48% complessivamente il settore finanziario in Irlanda. Leonardo, quanto grave è la situazione nonostante l'impegno del governo britannico? Perché il prossimo passo è chiaramente o stampare moneta o nazionalizzare tutto. E dallo stampare moneta siamo molto vicini, come abbiamo detto, perché questa mossa, questa cosa fatta dalla Banca d'Inghilterra, 50 miliardi, secondo la maggior parte degli analisti, è preparare, come dire, la cornice per incominciare a stampare moneta. Quindi questa è una cosa che viene già presa in considerazione, primo. Secondo, sulle banche bisogna tenere presente una cosa: il caso di Royal Bank of Scotland è un po' diverso dalle altre, perché oggi ha annunciato 28 miliardi di perdite nel 2008, legate largamente all'acquisizione di ABN AMRO. Questo è un punto che Gordon Brown ha sottolineato, dicendo che è assolutamente inaccettabile che una banca si assuma rischi di quelle dimensioni, visto che tutta la sua esposizione, insomma tutta la sua perdita era sostanzialmente legata ai subprime in America e all'acquisizione di ABN AMRO. Ecco, ricordiamo che a fine 2007, con la bufera già in corso, Royal Bank of Scotland assieme a Fortis e a Santander si sono comprate il colosso olandese ABN AMRO, hanno pagato 70 miliardi, poi è arrivato il diluvio e quantomeno i manager, quanto a preveggenza, dovrebbero andare a fare altro. Comunque ti ho interrotto, scusami. No, figurati, giustissimo ricordarlo. Poi, e quindi questo è il caso Royal Bank of Scotland, che ormai è il 70% della... il 70% è in mano allo Stato, e lo stesso CEO ha ammesso che nel weekend si è parlato di nazionalizzazione tout court. Di fatto, cioè, la nazionalizzazione è alle porte. È già in atto, il 70%. Vabbè, questa, siccome anche l'Irlanda è in ginocchio sul fronte bancario, l'abbiamo appena ricordato, questo piano a 360 gradi cos'è? L'ultima spiaggia? Il prossimo passaggio cosa potrebbe essere? Il prossimo passaggio è la nazionalizzazione di tutte le banche, o comunque delle maggiori, di quelle messe peggio. Io non credo che... E poi stampare moneta. Immagino che siano queste le altre due possibili mosse in vista, peraltro prese abbondantemente in considerazione, perché se da un lato abbiamo visto che quella operazione sulla Banca d'Inghilterra crea la cornice per un possibile appunto quantitative easing, come si dice ormai con termini eccessivamente tecnici, sì, tra cioè l'altro, stampare moneta, oppure da un lato, e dall'altro abbiamo il tesoro, insomma lo Stato inglese, che è al 70% di Royal Bank of Scotland, quindi siamo a un passo dalla nazionalizzazione e dallo stampare moneta. Tra l'altro la Gran Bretagna può stampare moneta perché non è dentro l'euro, lo dico a chi scrive al 349-238-6666. È chiaro che porti a casa inflazione, l'economia non è che sia proprio saltata tutta nei principi, però insomma stampare moneta serve per salvare il mondo bancario. È un po' paradossale, Leonardo, che l'economia più finanziarizzata dell'Europa, l'economia spesso citata come il futuro, l'obiettivo, no? In cui si lavorava molto di finanza, si lavorava molto di servizi, sia messa in ginocchio con una rapidità che forse non hanno visto nemmeno gli Stati Uniti, perché in America i piani sono imponenti, ma hanno fatto comprare Merrill Lynch, ma insomma in Gran Bretagna veramente dopo 40 miliardi ne arrivano altri 250 più 50. Sì, è peggio, secondo me è peggio degli Stati Uniti. Adesso non voglio entrare nel dettaglio di un paragone che sarebbe anche estremamente complesso fare, però la dipendenza di questo paese dai servizi è enorme, dai servizi finanziari lo è in modo particolarmente evidente e importante. E poi c'è un fatto anche abbastanza curioso, cioè l'esposizione, il debito degli inglesi personale è elevatissimo. Cioè, e questo inevitabilmente ha una ripercussione poi a catena sul sistema, perché per cui la crisi dei mutui sulle case è stata fatta sentire molto peggio che nel resto d'Europa, ma rischia di essere ancora peggiore che negli Stati Uniti, perché c'è un'abitudine al debito in questi anni di bonanza, come dicono, con una parola bizzarra nel mondo anglosassone per definire il periodo in cui c'è grande ricchezza, che ha veramente accecato. E adesso è inevitabilmente il momento, come dire, del ritorno alla realtà. Sì, devo dire che molti ascoltatori giustamente ricordano come fino a qualche anno fa Royal Bank of Scotland fosse elogiata da molti commentatori, la capacità di ingrandirsi. Lo sappiamo, ne parlavamo nella prima ora, ricordando anche oggi un articolo di Giuseppe De Rita su Corriere della Sera. Sono cambiati tutti i paradigmi. Attenzione però a dire che l'Italia è messa tanto meglio solo perché noi, per fortuna in questo caso, avevamo banche un po' più tradizionali, c'è chi dice arretrate, un'economia più manifatturiera, meno di servizi. Dovremmo sfruttare anche noi l'occasione per rivedere alcuni modelli e rinnovarci in questa crisi. Comunque staremo a vedere, Leonardo Maesano, perché tu ricordavi come la situazione rischi in Gran Bretagna di essere anche peggiore rispetto a quella americana. Sorprende in questo senso che il pound, la sterlina, sia rimasta ferma, cioè sempre a 90 centesimi, un pound vale 90 centesimi di, l'opposto, scusate, un euro vale 90 pence, era arrivato fino a 94-95, vedremo se vi saranno altri movimenti. Per ora grazie a Leonardo Maesano in collegamento con noi da Londra. Oggi Standard & Poor's ha abbassato il rating, il voto sul debito greco, e questo era atteso, ma anche spagnolo. E va detto che invece la settimana scorsa aveva lasciato invariato il giudizio sul debito italiano. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.